sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, rieccoci con voi. Ben ritrovate, come ci piace dire. Stasera abbiamo un argomento monografico che è quello sul lavoro, quindi stasera vi parleremo del lavoro. Ma prima di parlare dell'argomento principe, o anzi dell'argomento principale di questa sera, vi ricordiamo che se volete potete mandare contributi a noi. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e se preferite potete telefonarci per collaborazioni su contenuti, sulla musica, sull'informazione. Potete quindi telefonarci al Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle 21 al numero 06 6864 201 che è anche segreteria e fax, oppure scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica clrbp@hotmail.com. E adesso entriamo nel vivo della trasmissione, siamo Pina e Lucilla. Il sottofondo però che sentirete durante tutta la lettura del pezzo forte sul lavoro è una musica di una canzone popolare abbastanza nota nel secolo scorso e anche forse due secoli fa, ma è di estrema attualità ancora oggi. Perché appunto oggi ci chiedono non solo di lavorare 8 ore, ma molte di più. E quindi ascoltate. Ancora una volta ci vogliamo avventurare nell'intricato mondo del lavoro e vogliamo aprire con voi ascoltatrici una riflessione a partire da una domanda. Cosa ne pensate dei tempi di lavoro? Questa curiosità ci deriva da alcune considerazioni emerse dagli slogan elettorali un milione e mezzo di posti di lavoro creati dal niente o quasi. Dalla lettura dei giornali, rinnovo dei contratti rimandati ad libitum, scala mobile, costo della vita reale programmato, presunto, da definizioni fantasiose sullo sfruttamento del lavoro che andremo ad analizzare successivamente. Dalla mentalità corrente e collettiva in rapporto al lavoro, quest'ultimo aspetto consideratelo come la X incognita delle equazioni matematiche. Insomma, cosa si pensa oggi del lavoro? Ad esempio, è un diritto o un privilegio? Lo si deve perseguire o ci si deve far perseguitare? 8 ore vi sembrano poche o troppe? Poniamo queste domande perché, trovandoci a leggere dati riportati dalla stampa o da internet e quindi alla portata di tutte e tutti, è evidente la trappola messa in atto dalle lobby di potere. Il problema è come renderla inefficace. Quale sia l'interesse del capitalismo patriarcale è lampante. Estendere su scala mondiale e quindi anche nel mondo industrializzato le regole del lavoro non garantito. Infatti, mentre nel terzo mondo le forme di sfruttamento sono molto più evidenti, nel cosiddetto mondo occidentale, tanto avanzato e tanto progredito, le forme di sfruttamento sono molto più subdole e striscianti, ma non per questo altrettanto pericolose. Lavoro atipico, precario, part-time, interinale, telelavoro, formazione, nero, a termine, determinato, indeterminato e chi più ne ha più ne metta. Ecco spiegato il milione e mezzo di posti di lavoro creati negli ultimi 4 anni. Queste forme di lavoro incerte e provvisorie hanno ottenuto come unico scopo di far arricchire maggiormente le imprese, indebolendo le lavoratrici e i lavoratori. Tutto questo con il beneplacito dello Stato e delle principali organizzazioni sindacali. Insomma, una vera e propria metamorfosi del mondo del lavoro e del vivere sociale complessivo, imputabili principalmente e senza dubbio all'innovazione tecnologica, all'omologazione mondiale dei bisogni dei consumatori, alla trasformazione produttiva. Inoltre, le grandi concentrazioni di proprietà, vedi catene alimentari, televisive, eccetera, invocano efficienza e competitività, che si traduce in drastiche riduzioni del personale, in trasferimenti dei processi produttivi laddove è minore il costo della mano d'opera, nell'appaltare fasi del ciclo. Tutto ciò accresce il lavoro nero, precario, flessibile e contemporaneamente accresce il profitto delle imprese. Senza che tali benefici, quelli del profitto delle imprese, vengano ridistribuiti nel mondo del lavoro, né attraverso l'incremento dell'occupazione, dei salari reali o la riduzione dell'orario di lavoro, né attraverso il miglioramento quali quantitativo dei servizi sociali. La cosiddetta globalizzazione, invece che equiparare, accresce il divario tra nord e sud del mondo, approfondisce il solco fra occidente e est europeo, con buona pace della salvaguardia dell'interesse collettivo e dei vincoli di solidarietà, spingendo sempre più verso una società individualista che interpreta le relazioni sociali come modalità di selezione naturale. Questo modello di sviluppo porta pesanti ricadute, oltre che sull'ambiente e sulla salute, anche sulle spalle dei lavoratori. Il ricorso sempre più massiccio a nuove tecnologie, sempre più avanzate, determina una forte insicurezza tra i lavoratori, che vedono diventare obsolete le proprie competenze professionali a velocità impressionante. Insicurezza, inoltre, fortemente incrementata dalle logiche di efficienza dell'impresa, sempre più basate, come si è già detto, su precarizzazione, flessibilità, mobilità del lavoro. Il passaggio graduale da una prevalenza di lavoro stabile a quello precario realizza un continuo smantellamento delle tutele dei lavoratori. Il lavoro flessibile, part-time, interinale, a tempo, telelavoro, di cui ne sono pieni i giornali e le televisioni, sono spacciati come modelli di vita libera e moderna. In realtà altro non sono che precarizzazione della vita sociale e allargamento delle aree di miseria. Lo scenario che si va delineando è quella delle istituzioni che si piegano alle esigenze dell'impresa, anzi, paradossalmente ne fanno parte integrante. Lo Stato assume come logica ispiratrice la cultura dell'impresa, dell'efficienza aziendale, della competitività, perdendo quel ruolo fondamentale che gli è proprio, quale quello di regolamentazione, mediazione dei conflitti sociali e di socializzazione del benessere attraverso le politiche di welfare state. Il mercato quindi come divinità sociale e il conseguente avanzare dell'ideologia individualista che fa della propria autoaffermazione la bandiera portante. Anche la formazione e l'istruzione sono allineata su questi standard. Infatti la cultura si piega alle logiche delle imprese, in quanto orientata non più alla ricerca della verità come sapere critico, ma piuttosto al tecnicismo, al settorialismo immediatamente utile all'efficienza economica propria dell'impresa, ma scollegata dalla finalizzazione sociale. Meglio non dire. cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore, pensiero stupendo, lascia un po' più strisciato, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, e tu sentito intanto un pensiero stupendo di Patti Pravo, e continuiamo invece con il nostro sottofondo musicale, che sono, se 8 ore vi sembrano poche, e continuiamo con il nostro pezzo sul lavoro. Ecco il vero volto quindi della New Economy, anche se sul piano dell'informazione, televisioni, giornali eccetera, passa tutt'altro. Infatti sentite cosa ci dice il presidente dell'Istat nella relazione che ha presentato al convegno di Napoli del gennaio 2000 a proposito delle trasformazioni del vivere, il lavorare delle donne. La prima parte è relativa ai percorsi formativi e riguarda i dati complessivi di donne e uomini. Subito dopo leggeremo una parte che riguarda la posizione lavorativa delle donne, i cui dati sono parziali perché riguardano solo l'insieme delle donne. Ma come impatto però, rispetto a questi dati che vengono letti, pare niente male, un modo come un altro di presentare dati indorati come pillole. Allora, dalla relazione del presidente dell'Istat, le donne investono di più in cultura e riescono meglio negli studi. Negli ultimi decenni la propensione da parte delle donne a proseguire gli studi, in particolare nei cicli dell'istruzione superiore, è fortemente aumentata. La quota di ragazze tra i 14 e i 18 anni iscritte alle scuole secondarie superiori sale dal 7% del 50-51, cioè parliamo del 1950-51, all'84% del 1997-98 e fra i ragazzi dal 12% all'81%. Nel 1950-51 le studentesse universitarie erano meno del 3% delle 19-23enni rispetto all'8,5% dei coetanei, quindi dei maschi. Nel 1997-98 le ragazze iscritte all'università sono il 47,5%, i ragazzi soltanto il 37%. Importanti cambiamenti si presentano anche nella scelta degli indirizzi. La presenza delle donne raddoppia negli istituti tecnici e professionali, da 21,5 a 47,5%. Passa dal 5% al 19% nei licei scientifici, si dimezza nei licei classici e linguistici, e cioè dal 31% al 14%, e si riduce ancora di più nell'istruzione magistrale, dal 41% al 15%. Anche nelle università le donne scelgono sempre più spesso corsi dove era tradizionale la presenza degli uomini. Il rendimento femminile è superiore a quello maschile. Se si analizza il destino formativo di due generazioni ricostruite di ragazzi e ragazze licenziati dalla scuola media inferiore, emergono chiare differenze di genere. Di 1000 donne con licenza media, 694 conseguono la maturità, fra gli uomini soltanto 566. Abbandona al primo anno l'11,4% delle iscritte alle scuole secondarie superiori rispetto al 25% dei ragazzi. Le donne presentano una propensione ad iscriversi all'università maggiore dei loro colleghi e abbandonano meno frequentemente. Al termine del percorso formativo, fra le 1000 donne con licenza media, 193 conseguono un titolo universitario, fra gli uomini soltanto 120. Ma sentite la seconda parte della relazione, nella seconda parte, il capitoletto intitolato Migliora la posizione lavorativa delle donne, dove i dati riportati riguardano soltanto i dati relativi alle donne. La progressiva terziarizzazione dell'economia italiana e la più ampia articolazione dei contratti e degli orari di lavoro hanno favorito l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, non soltanto come dipendenti, ma anche con iniziative imprenditoriali. Nel 1999 sono state rilevate oltre 1,2 milioni di lavoratrici autonome. Le donne stanno dunque approfittando delle opportunità derivanti da una domanda di lavoro meglio corrispondente alle loro esigenze, badate, le esigenze delle donne, qui dice. Inoltre si propongono sempre più frequentemente in posizioni di maggiore e diretta responsabilità, come libere professioniste e imprenditrici ed in qualifiche più elevate. Cresce soprattutto la quota delle dirigenti, dal 26,8 al 31,5% tra il 93 e il 99. Delle impiegate tra il 47,9 al 50,5% e anche delle operaie, che è dal 29,2 al 30,8%. Fra le occupate indipendenti aumenta la quota delle imprenditrici, dal 15 al 21,2%, imprenditrici, notate bene, e delle libere professioniste, dal 18,8 al 24,7, mentre diminuisce quella delle coadiuvanti, che dal 60,9 passa al 56,5%. Complessivamente l'occupazione femminile ha beneficiato in misura superiore a quella maschile della crescita di porzioni lavorative non manuali, tanto ad alta qualificazione che a bassa qualificazione, mentre ha subito in egual misura la flessione delle professioni manuali. Sorge sorge un'altra domanda. Chi ha incontrato il milione oltre di lavoratrici autonome potrebbe chiamare subito in radio? You know I'm not that kind. Woo! Come on. Prima di continuare nelle dissertazioni circa quanto dichiarato dal presidente dell'Istat, vogliamo tranquillizzare le nostre ascoltatrici che abbiamo ricevuto i messaggi, anzi se vogliono dopo nel quarto d'ora che ci rimane ad oltranza andiamo con le canzoni che a loro piacciono. E quindi continuo nella dissertazione, anzi in quelle interessantissime dissertazioni della relazione del presidente dell'Istat circa i carichi di lavoro domestico ed extradomestico femminile, che preferiamo però leggervi integralmente perché si commentano da sole. Quindi, asimmetrie di genere in famiglia. La crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro non ha cambiato corrispondentemente la distribuzione dei compiti familiari né l'approccio culturale ai ruoli di genere. Il lavoro familiare rimane ancora essenzialmente attribuito alla loro responsabilità, indipendentemente dalla presenza di un impegno extradomestico più o meno esigente in termini emozionali e di tempo. Le donne che ricoprono contemporaneamente i ruoli di lavoratrici, moglie e madre accumulano un consistente ammontare di lavoro giornaliero. Il 56% delle donne occupate in coppia con figli è impegnato per 60 ore o più a settimana, rispetto al 15% corrispondente dei loro partner. Il 38% addirittura 70 ore o più. Tra le donne con ruoli multipli, il 65% delle lavoratrici in proprio è impegnato almeno 60 ore a settimana. Fra le operaie la percentuale è del 60%, fra le imprenditrici, libere professioniste e dirigenti è del 55%. E infine, fra le qualifiche direttive, i quadri e le impiegate abbiamo circa il 50%. C'è dunque ancora asimmetria di genere nella distribuzione del lavoro familiare e della cura dei figli, sebbene tra le giovani generazioni emergano segnali di novità nell'impegno paterno. E per finire, nonostante tutta la soddisfazione che il presidente dell'Istat esprime circa l'occupazione femminile, non sfugge comunque neanche a lui che, tuttavia, il 53% delle lavoratrici in coppia con figli si dichiara insoddisfatta per il tempo libero rispetto al 46% delle casalinghe con le stesse caratteristiche. La centralità assunta dal lavoro nella vita delle donne si accompagna dunque al permanere di difficoltà nel conciliare ruoli esterni e interni alla famiglia. I cambiamenti culturali sono lenti, le politiche del lavoro e della famiglia rimangono ancora insufficienti, nonostante gli importanti interventi recenti. Le donne si presentano come protagoniste del cambiamento, autrici delle proprie vite, ma non possono essere sole a premere per la costruzione di migliori equilibri. Il problema delle disuguaglianze di genere non può essere delegato ad esse. L'intera collettività deve impegnarsi nella riduzione delle asimmetrie. Ok, avete sentito il pezzo di Angélique, abbastanza suggestivo, ritmi africani, Angélique Kidjo, Kidjo, scusate, e il pezzo era Caleta. E non avete fatto trillini, vabbè, non ve la rimandiamo, d'accordo. E proseguiamo invece con ancora la lettura e abbiamo parlato di una serie di dati ufficiali della relazione del presidente dell'Istat. E proprio perché i dati ufficiali, diciamo noi, si commentano da soli, ci teniamo a leggervi invece quanto viene fuori dal sito delsole24ore.com a proposito delle donne e delle loro opportunità di lavoro e di tempo libero. Allora, andiamo con i numeri della diseguaglianza. Poche cifre che dimostrano quanto sia ancora la distanza tra i due sessi nel lavoro e nelle istituzioni, nella società in Italia e nel mondo. Alcuni semplici numeri possono dare idea di quale sia la condizione delle donne in Italia. Nella grande industria il 97% dei posti dirigenziali è occupato dagli uomini. La presenza femminile cresce leggermente nelle piccole e medie imprese. Solo il 10% dei parlamentari sono donne. La prima donna ministro è stata Tina Anselmi nel 1976. I sindaci donna sono solo il 6% del totale. Il 47% delle giovani tra i 6 e i 24 anni hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. La percentuale scende al 37% tra i ragazzi. Su 1000 donne le laureate sono 177, tra gli uomini sono 112. Tra i magistrati capo la percentuale scende al 4%, mentre non esistono ambasciatrici italiane all'estero. Il 24% delle donne ha subito molestie fisiche nel corso della vita almeno una volta. Negli ultimi 3 anni è accaduto a 4,2 su 100. Il 33% delle donne sono vittime di molestie telefoniche. Quelle che hanno il telefono intestato al loro nome sull'elenco sono spesso costrette a chiedere un numero riservato. Le agenzie pubblicitarie sono l'Eden, per modo di dire, delle manager. Allora, sentite, la percentuale dei dirigenti è la più alta, il 35%. Che cala però nelle case editrici, cioè dove si comanda, al 16,8% e nelle concessionarie di pubblicità al 13,5%, dove i posti sono più prestigiosi e meglio pagati. Nella pubblica amministrazione le responsabili di progetti di ricerca sono il 14,7%, mentre nei ministeri le dirigenti generali non arrivano all'8%. Ma anche nel mondo, stando alle statistiche Istat e ONU, le cose non vanno meglio. Una donna su 16 in Africa rischia di morire per cause legate alla gravidanza. Una su 65 in Asia e in Europa si scende a una su 1.400. Due terzi degli 876 milioni di analfabeti nel mondo sono donne, questo a dispetto dei dati invece del mondo industrializzato. 30% almeno delle donne tra i 15 e i 19 anni è già sposato in 3 paesi su 5 dell'Asia meridionale e in 11 su 30 dell'Africa subsahariana. Il 50% e oltre delle donne e delle ragazze di alcuni paesi africani è stato sottoposto alla infibulazione, una mutilazione rituale degli organi sessuali. Il 1996 è un anno nero per le donne dell'Afghanistan. Prendono il potere i talebani e impongono alle donne l'uso del burqa, togliendo loro di fatto ogni diritto civile. Allora, ancora altri dati, questa volta sono sempre dal sito del sole24ore.com, però sono relativi proprio all'occupazione. Allora, le donne e la busta paga che le donne hanno è più leggera del 20% rispetto a quelle degli uomini. Il divario con i colleghi aumenta per le fasce più alte, ma dal lavoro arriva una circolare contro la discriminazione, cioè dal Ministero del Lavoro. A parità di prestazione, la busta paga di una donna è del 20% inferiore a quella di un uomo. È quanto emerge da una ricerca condotta da ITER e CNEL sui differenti sui differenziali salariali per sesso in Italia. L'indagine conferma l'esistenza di differenze significative non giustificabili né dalla durata della prestazione né dal settore di attività o da altre condizioni particolari. La forbice tra uomo e donna si allarga nella fascia più alta della scala retributiva, ma anche tra i pensionati la discriminazione è pesante. I trattamenti previdenziali, udite udite, erogati dall'INPS alle donne, che peraltro rappresentano la fetta maggiore del settore, sono del 40% inferiori a quelle degli uomini. Occupazione. Lavoro al femminile è sempre più flessibile, cresce la percentuale delle donne che lavorano. Si tratta però, ahimè, di lavoro atipico. Il dato emerge da una ricerca dell'IRES CGL. Sono sempre di più le donne che lavorano, anche se spesso si tratta di occupazione atipica, ovvero di contratti a termine, di part-time e di collaborazioni coordinate e continuative. E quando emerge da una ricerca dell'IRES CGL, secondo la quale dal 1997 al 2000 le lavoratrici sono cresciute di 472.000 unità, passando da 7.192.000 a 7.664.000. In percentuale l'aumento è stato pari al 6,2%, quasi tre volte quello dei colleghi maschi, 2,3% chiaramente. L'occupazione al femminile rappresenta il 36,8% di quella complessiva, con punte del 44% nei servizi, mentre 5 anni fa era poco più del 34% del totale. Un ruolo cruciale in questa crescita, sottolinea la ricerca, è stato svolto dal lavoro flessibile. Mentre infatti il lavoro tradizionale è cresciuto dell'1%, quello temporaneo e il part-time sono aumentati entrambi del 26%, soprattutto grazie all'impiego femminile. E se le donne rappresentano il 36,8% di tutti gli occupati, è molto più rilevante la loro presenza tra quanti lavorano a tempo determinato, 48,1, e tra i subordinati 45,6. Le donne sono il 76,7% dei lavoratori part-time e il 60% dei lavoratori a tempo determinato part-time. E ancora, l'occupazione è più flessibile al sud rispetto al nord del paese. Sono infatti occupate a termine il 13,2% delle donne meridionali e il 14,7% di quelle impiegate nelle isole. Nel nord e nel centro le percentuali scendono rispettivamente all'8% e al 9%. Il lavoro part-time dunque cresce, ma con implicazioni diverse. Al nord è spesso scelto dalle donne per avere più spazio per la famiglia, mentre nel mezzogiorno in molti casi rappresenta una copertura per occupazioni sottopagate, c'era da immaginarselo. Ecco, e le donne infine hanno meno possibilità degli uomini di trasformare la propria occupazione temporanea in un lavoro più garantito. A distanza di 15 mesi tra coloro che avevano un contratto a termine, era occupata a tempo indeterminato, anzi erano occupati a tempo indeterminato il 39% degli uomini ed erano occupate il 37,1% delle donne. A questo punto merita fare un piccolo bilancio, a dispetto di quante donne che credono di essere emancipate. Ecco, dopo anni di lotta delle donne, questi sono i risultati. Sottooccupate. Sottopagate. Sfruttate. Stuprate. Schiavizzate. Molestate. Maltrattate. Precarizzate. Angeli del focolare, e la storia continua. Madri dei propri figli. Mogli dei propri mariti. Amanti degli uomini. I dati che abbiamo fedelmente riportati, come abbiamo già detto, si commentano drammaticamente da soli. E così, come già rilevato nella trasmissione sul lavoro minorile, anche in questo caso emerge che le donne sono quelle che si adattano più facilmente alle svariate forme di flessibilità perché culturalmente abituate ad avere questo atteggiamento. Purtroppo le donne e le donne lesbiche sono sottoposte a nefandi effetti della cultura del consenso, che annienta in noi tutta la capacità critica e ci fa accettare come logica naturale forme di sfruttamento senza eguali. Ed è proprio alla costruzione di una cultura alternativa che intendiamo proseguire il nostro cammino politico, quindi dalla costruzione di una cultura alternativa. Allora, il coordinamento Lesbiche Romane vi saluta, ci ritroveremo martedì prossimo, adesso continueremo con i 15 minuti di diretta e ci diremo tante altre cose. Speriamo che la trasmissione vi sia piaciuta, arrivederci. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Siete voi dopo? Something's got